Che me lo fa mio fuori? Oh, ma basta le discussioni, ma... Io ci metto qua per soddisfare più perché c'ho sul computer l'apparato e c'ho lo scorrevole del computer aperto, quindi non lo vedo, se devo cercare il computer qua, mi immagino me. All'inizio anche quello. Ma in realtà secondo te c'è mai il piacere di radio? Adesso sei un po' cupo, tocca fare la picchiava. Cupo sono? Eia, provalo da il microfono. Aspetta. Guarda così a vedere se sono sempre cupo. Ola, ola, ola, ola, guarda. No, qua passaggio un po'. Perché forse come era chiuso l'affare, non c'era spifero per passare la voce, no? No, adesso va meglio. E poi anche volendo, già mi piace da me a Pirli, anche di Pirli, però il fatto che non ce l'ho fatto è un inibongo. Chi si è attaccati? Sotto una mensola che c'è nella veranda, ho messo delle squadrette, preghi, cavalla, abitate, ho bloccato un baracchino sopra, no, prima c'è l'eco, una cassettina della insetti, poi sotto c'è l'Inoiti, sempre proprio la BBC, e sotto ancora dello Zodiac, sopra c'è un alimentatore di computer, sopra ancora c'è l'alimentatore dell'Intec, e poi c'è il rosmetro col bassametro. Da Bovaggio, Lugaro, dove c'è attaccato il deviatore di antenne, perché prima l'avevo per la banchetta, ma l'aveva letto, l'ho annullato quel filo, schiacciavo un pulsante e funzionava la gamba, l'aveva letto, sempre con la stessa antenna. E poi non c'ho spazio, è un casino di vive. Sì, vabbè, che attivate le dici, grazie, cosa che ne ha fatto. Che tutto quanto, quindi l'unica cosa magari devi giambare l'antenna, va. Ma volendomi, quella di campagna, mi sembra che l'amanto fa 5, perché c'ha il mollone, chi sa gli fa il mollone e non la fa. Lo filo è solo quel radiale che vi manca, e quella di campagna, nuova nuova, è appiccata a numero, perché io l'avevo messa in campagna, perché prima c'era la primavera da questo periodo adesso, e me ne salivo all'inizio di ottobre, fino a settembre, capi? Ma certo non c'avevo la diabete, non va via tutti i malanni che va già va, pure andare pure, poi quando dice a travagliare, mi vogliamo là, mi fate da che cosa in campagna, capi? Ma adesso non ce la faccio più, e qua è staccata, se combatti la mira e sta minira in ovviso. Vabbè, se non la usi per fare la fase di ganchino è meglio che ti addratti giù. Quello che dico, anche se adesso scendo qualche volta, cazzo, mi pongo a fare, mi pongo per un malattino, un prezzo. Dunque non è che ho più quella voglia di farmelo malattino, di far cuccare che già, non ha più giugiana, però prima già lo facevo, cazzo, ma per rispetto non sapevo che malanni che ho adesso. Allora sì, se vogliamo, anche pure da io, poi la mamma in massa me ne andate a settimana, ma adesso invece no, sta giù andando, dai no. Non so, vabbè, poi ce n'è un bel 5,50, 3 apparati, dopo 3 apparati, 550 euro, devo bucare di sì. 3 apparati 550, e apparati magari uno funziona e due no. Allora, l'otto apparati radio buone condizioni estetiche elettriche comprende veicolare media ala 68S, veicolare Sommercamp TS680, 25 watt, base fissa AM International Jumbo, microfono, base fissa TAMER più 3, alimentatore di energia regolabile dell'acqua a 18 volt, 10 ampere, svolto nel amperometro illuminati. Commutatore di antenna ZG, due cavetti di antenna terminati, sono compresi tutti i microfoni originali, tre microfoni. Qual è quello di 550? C'è molto un bel di roba, non pensavo. C'è molta roba. Beh, se c'è un bel di roba, sì, ma e se poi prendi la fregatura e gli dici la roba ne funziona la mangiai, come fai? Se tu una volta che gli mandi i soldi, quello ti manda la roba, come te che funziona? O ti manda la roba e tu gli mandi i soldi. Se è così, sì, a chiunque se la controlla e tutto, o no? Dipende, ci sono quelli che ti rimandano a casa, ma quasi tutti vogliono i soldi prima. Quasi tutti vogliono i soldi prima, grazie. Sono anche quelli che te lo mandano a casa e tu fai il tuo amico. Accatto la figlia, se poi dico la roba ne funziona la metà o addirittura non ne funziona nulla, sarà un padrone di là e rimane fregata. Si dice quando lo faccia, ma non ti risponde più. Esatto. La fregatura è quella, cosa dico io. È già lo dici l'anno televisore, canta niente, sembra un lene con questo fatto di Facebook, che compareggia tramite computer, lo fa vedere anche se c'è la notizia. Di giù tipo che vendia, cioè ti ritirava la macchina, la moto e ti la vendia a Ezio. Cazzo, si rivendia e ci mangiava lì di una Ezio e è sparito. Poi l'hanno rintracciato, non l'hai visto, altri c'è la notizia, da poco l'hanno fatto. Addirittura che l'hanno copiato, che già trovava lì di una Ezio. Chissà chi si è mollato tutto e fuggito al suo ruco. Vabbè, io mi sento io, faccio un pescio, mi sento io. Ho preso internet, comprando, ma da più soldi che mi hanno mandato più la roba. Ebbene, non l'hai contattato più tu avessi ti rispondeva. Sì, l'ho contattato per rispondere più. Sono andato anche alla polizia in un'organizzazione che sta fregando un sacco di gente e che praticamente lo sanno che prima o poi li metteranno in ferri. Però sin quando li bloccano, dice che fanno vita a una babbi, andano al ristorante prima categoria, macchine grosse, remi, libri, champagne, vita a una babbi, là. Ehi, perché fregano un sacco di gente, te lo sto dicendo, tutti non vedi niente, ma un bel ombre. Io anche quando qualche volta ordino qualcosa per catalogo qua, ci sono le forme di pagamento, il pagamento alla consegna quando mi arrivi la merce, quando mi arrivi la merce gli danno battere il gas da un attimo, apro la cattra a far via con il cuscito, apre il controllo di tutti in trento e si vede tutto che c'è la giubilia e gli dicono non puoi aprire, scusa io me lo devo controllare, e c'è rotto, e c'è l'assicurazione, non mi dare saluta, di non mi pigliare buttati zitto. A me non mi tarisce, me lo controllo, e sul di arrivederci. Bravo Mattia, bravo, sai che te ne intendi. No, a chi che hanno rubato il rubino, la ditta gli si è detta, la pulizia si intende, voleva essere soppiede, baro, che ha durato già perché tutte e quattro le catture. Ehi, comunque, buonasera. Già, te ne vedo io, sei tranquillo allora, dai, siamo vicini, d'accordo. Una cosa io la preferisco comprarla sì, però lì la vengo e la vedo in mano, lo docco, lo gli, il latte, lo bicio, hai capito già? In questa maniera prendi le fregature, specialmente dai privati, non tanto dalle ditte quelle grosse che vendono proprio gli apparati, ma da chi ci privati così, i bigli di tutti duri, e infatti già l'hai preso la fregatura, 200 euro furati. Così è Gianmarco. Fa, sì, bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti a queste cose. Dai, vi stavo ascoltando e guardando la televisione, dai. Ci sentiamo, grazie a buon proseguimento a tutti e due, dai. A domani, se così è. Ciao. Ciao, ciao. Ok, già, va bene, sarà la che di qualcosa. Alle prossime, però, buon proseguimento. E non mi dia cosa darebbe fatto, a meno che... prima la merce e poi dai mandorlini, se no niente da fare. Io adesso per casa da vanno le bidubi. Ciao Gio Maria, ciao anche grazie, allora, buona serata e buona domenica per domani. Ciao ciao. Ehi, ciao già, e ricordati una cosa, se arrivi a meglio che la vedi la figura male, a meno che non sia una ditta grande, che ti ha di dato di garanzia e tutto, allora sì, perché se c'ha difetto glielo puoi rispedire, però la gente privata così, ti ributti giù, e come prende la scatola chiusa, o non vedi merce e non vedi più lì di là, oppure vedi la merce e tutta cassinata. Dunque, c'è poco di fidarsi. Poi guardate il soccorrente. Va? Ciao! Ciao, ciao, grazie, ci sentiamo. Va. Ciao, fra, l'ho sentito. Sto parlando. Ma tu non ce l'hai. Campa gamba. Ti devo lasciare che arriva sta gente, fra, scusami. Hanno suonato, ci sentiamo alle prossime, stai aspettando gente a casa.